È un modo per farsi sentire, uno cerca anche con la propria voce di fargli capire che tutto questo non può andare avanti, questa precarietà, questa disoccupazione, forse non si rendono conto che qui la gente veramente sta morendo di fame, ci sono famiglie che non vanno più avanti e questo bisogna insomma avere un modo per fargli dire basta. Ma Non è stato fatto quanto dovuto contro la crisi economica. E no, sicuramente no. Questo è molto poco, io direi. per gli aquilani invece? Gli aquilani, io sono molto contrario di stare qui in Abruzzo, ma purtroppo non è stata una decisione nostra che siamo qui ora a manifestare. La colpa è del nostro Presidente del Consiglio, purtroppo, che è stata una cosa mirata perché è palese. E a me mi dispiace per la gente che purtroppo sta vivendo questa situazione, che già si trovano male, insomma, per la disgrazia che è successa. Però, ripeto, noi come non possiamo privarci di venire a manifestare cioè noi siamo più pacifisti possibile, normale, non vieni qua a fare il macello, però siamo venuti per farci sentire comunque.